Cominciamo allora, siamo alla 20ª edizione del Porretta Film Festival, siamo con Luca Elmi che innanzitutto saluto, ciao e ben ritrovato. Grazie, grazie a tutti voi. Allora, abbiamo vissuto quello che ben sappiamo, si riprende, immagino che non è mai stato ferma la kermesse di Porretta, come si riprende? Non siamo stati fermi perché l'anno scorso siamo andati completamente online, ma quest'anno diciamo facciamo un festival doppio, doppia fatica ma anche doppio, insomma, doppia aspettativa. Ci sarà sempre online, il concorso fuori dal giro sarà nello stesso momento online, nello stesso momento nella sala Cinema Corsa, quindi è anche un modo per raccogliere dei pubblici diversi, quindi quelli affezionati alla sala ma anche quelli lontani in tutta Italia che vogliono seguire il festival. Il festival quest'anno farà oltre 50 proiezioni, quindi abbiamo esagerato quest'anno. E voglia di presenza. Voglia di presenza, e ci sarà una retrospettiva, come ormai tradizione del festival, su Gianni Amelio, che sarà con noi il 5 dicembre. Ci sarà la prima volta dedicato a Alfonso Cuarón. Il primo film di Cuarón non è mai stato presentato in Italia e siamo riusciti noi a portarlo a Porretta, quindi una grande emozione questa cosa. Il premio Petri è arrivato alla terza edizione, quest'anno ci sono 6 film in gara e ci sarà anche un premio speciale che verrà decretato dalla giuria. Tanti altri eventi collaterali che sono da presentazioni di libri a il film, un documentario su Alida Valli che è la nostra madrina, insomma per i suoi 100 anni abbiamo cercato di ricordarla nel manifesto, e grazie anche alla Cineteca di Bologna che ci ha dato per l'utilizzo la foto che rappresenta Alida Valli. Tante cose, invito tutti a venire a Porretta. E novità? Novità ci sono, Focus Emilia Romagna, ci saranno dei film del territorio, perché ormai siamo diventati un territorio diciamo importante dal punto di vista del cinema, quindi è importante raccontare anche questa storia, e tanti cortometraggi nella rete legati a Short Hair ma anche a Corto Dorico. Quest'anno abbiamo gemellato con un festival di cortometraggi delle Marche, quindi anche raccontiamo anche un'altra esperienza in un'altra regione. Proprio legato al premio Petri avremo un incontro. Quest'anno sono i 50 anni dalla Classe Operaia Va in Paradiso, presentato in anteprima Porretta. Vorremmo raccontare invece quest'anno come il lavoro è stato raccontato in questi 50 anni del cinema italiano. Quindi partendo dalla Classe Operaia Va in Paradiso fino ai giorni nostri. Quindi il lavoro nella realtà è cambiato, vediamo come lo hanno raccontato diciamo gli sceneggiatori e i registi italiani. Tra l'altro con quello che ha vissuto quel territorio, con il caso ex Saeco. Assolutamente, Saga è una parte importante del nostro territorio, anche il festival non può dimenticarla, è importantissimo, siamo vicini ai lavoratori, alle lavoratrici, e perché la comunità quando succedono queste cose si deve unire ancora di più. Quando e come si comincia? Al 4 dicembre, sabato 4, con l'inaugurazione di una mostra di un nostro amico DGA che ha fatto una serie di caricature dei più grandi registi internazionali, e fino all'11 dicembre, dove ci sarà la serata finale con le premiazioni. Grazie e buon festival. Grazie.